Rivoluzione nel mondo dei social. Social contro i politici, politica contro i social, aziende contro i social, social contro tutti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The ban of TikTok in India. A lot of people send this to me. This is a huge development. Starbucks and Coke announcing pauses in their social media buys, the latest actions against companies like Facebook and Twitter. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, 16.08.06 secondi in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Elara Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, quest'oggi in assistenza Elisabetta Fusconi e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti sul tema che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, che è questo: i social media sono sempre più arena di scontro, piazza per confronto, globalizzata e globalizzante, ma anche strumenti di propaganda e inevitabilmente armi per la moderna geopolitica. Ma sono successi un po' di eventi negli ultimi giorni. Meno recentemente Donald Trump che si scaglia contro Twitter, Twitter che lo censura. Più recentemente Facebook è andato a oscurare alcuni siti e account di suprematisti bianchi. Ancora più recentemente e negli ultimi giorni grosse aziende internazionali hanno ritirato i propri investimenti pubblicitari da Facebook perché non condividono alcuni messaggi che veicolano l'odio. Se ci spostiamo ancora più a est, accade qualcosa anche nei social di stampo cinese, TikTok. L'India praticamente ha bannato almeno 50 applicazioni made in China, tra cui anche il social network TikTok, che badate bene, ha nel mercato indiano sostanzialmente il mercato principe. Forse è arrivato il momento di fare una riflessione. E forse è arrivato il momento di sfogliare i nostri dossier. Che sono le notizie e i fatti che continuiamo a tenere d'occhio giorno dopo giorno per poi restituirveli, magari in forma di approfondimenti o di nuove puntate di Nessun Luogo è Lontano. Come sapete, ci occupiamo spesso e volentieri della zona del Sahel e nel suo primo viaggio extraeuropeo dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19, il presidente francese Emmanuel Macron si è recato proprio in Mauritania per andare a risolvere o quantomeno meglio comprendere la situazione proprio in Sahel. Era infatti atteso per l'incontro a Nouakchott, nella capitale mauritana, per il consesso del G5, cioè Mauritania, Mali, Chad, Niger e Burkina Faso. Qual è l'ordine del giorno? Rafforzare la strategia e gli sforzi contro i miliziani islamisti in questa vasta regione africana. Sul piatto, e chi ci segue assiduamente lo ricorderà, c'è anche la decapitazione di uno dei leader, Abdelmalek Droukdel, nonché una serie di scontri e di attacchi non soltanto intestini fra questi gruppi jihadisti, ma anche rivolti verso, soprattutto il Burkina Faso e il Mali, anche rivolti verso gli stranieri. E durante l'incontro è stato raggiunto in videoconferenza anche dai primi ministri di Spagna, Italia e Germania. Macron ha detto che l'incontro è stato necessario per consolidare le conquiste e ha aggiunto, e non è scontatissimo, almeno non lo era fino a qualche mese fa, che la Francia rimarrà attiva nel Sahel finché la sua presenza sarà richiesta dagli stati stessi e fin tanto che la sovranità statale e la sicurezza della popolazione saranno in pericolo. Nonostante il presidente francese abbia elogiato l'operato delle forze armate del G5, un'inchiesta però delle Nazioni Unite accusa i soldati di alcuni paesi saheliani di aver commesso violenze contro la popolazione locale, accuse che si sommano a una corruzione endemica e una situazione sul terreno che desta ancora preoccupazione. Insomma, Macron è sostanzialmente andato a ribadire quel concetto che alcuni mesi fa aveva già fatto a Pau, luogo non scontato per accogliere i rappresentanti di quei paesi, parliamo di epoca pre-Covid, perché di Pau, alla base militare di Pau appartenevano la maggior parte degli elicotteristi che erano stati vittime di un attacco jihadista proprio in Mali. A Pau aveva detto ai colleghi africani: attenzione, noi continuiamo a tenere l'operazione Barkhane, stiamo parlando di migliaia di uomini, circa 5.000, ma se e fin tanto che voi accettate il nostro lavoro. In sostanza ha chiesto una stretta di mano e un appoggio. In Argentina, velocemente, perché il giudice federale Federico Villena ha disposto ieri l'arresto di 22 persone nell'ambito di un'indagine sulla presunta rete di spionaggio illegale ai danni di funzionari, politici, imprenditori, giornalisti e, pensate, perfino sacerdoti, attiva durante il precedente governo del presidente Mauricio Macri. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Telam. Nel gruppo degli arrestati, denominato Super Mario Bros, precisa l'agenzia, spiccano in particolare la ex responsabile della direzione della documentazione presidenziale, persona di massima fiducia di Macri, Susanna Martinengo, l'ex capo della divisione controspionaggio dell'agenzia federale di intelligence. Fra le varie persone spiate figurano anche la ex presidente, oggi vicepresidente della Repubblica, Cristina Kirchner, il governatore di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Infine in Sudan, perché non si calma la situazione sociopolitica nel turbolento e funestato paese africano. Ieri migliaia di persone sono scese nelle strade delle varie città, soprattutto Khartoum, al grido di libertà, pace e giustizia, che era lo slogan di quel movimento anti-Bashir che ha permesso la caduta del presidente dittatore alcuni mesi fa. Sostanzialmente la società civile è scesa in piazza per ribadire che quegli accordi che hanno portato a un congiungimento, diciamo, di intenti tra ala militare e ala civile vengono rispettate. Allo stesso tempo la polizia ha cercato di disperdere i manifestanti utilizzando anche gas lacrimogeni. Ricordiamo, al momento il primo ministro Abdallah Hamdok governa il paese, appunto, in tandem, come vi dicevo, con l'esercito. Una coalizione di opposizione ha accettato di governare congiuntamente con i militari in questa transizione che durerà 3 anni e che dovrebbe condurre a libere elezioni. Ma l'opposizione dice, attenzione, che non tutti i punti dell'accordo sono stati rispettati. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. Faremo il punto sull'utilizzo dei social media come formidabile strumento e arma geopolitica, non prima però di essere andati a Hong Kong. Probabilmente in futuro non vedremo più così tante persone nelle strade. Non perché saremo soddisfatti del governo, ma perché ora viviamo nel terrore. Andiamo a Hong Kong e l'abbiamo fatto con le voci della piazza, una piazza ridotta, gli arresti iniziano a fioccare dalle prime ore dell'alba, quando è scattato il 1 luglio la nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino, che immediatamente ha dispiegato i suoi effetti nell'ex colonia britannica. Poi avete sentito la voce di Avery Young: probabilmente in futuro non vedremo più così tante persone nelle strade, non perché saremo soddisfatti del governo, ma perché viviamo nel terrore. Così ha detto quello che è da sempre un esponente della, sostanzialmente, della prima linea del fronte democratico di Hong Kong. Oggi vi dicevo 300 persone arrestate. Perché? Perché si sono radunate senza l'autorizzazione, e questo automaticamente, per la nuova legge, significa l'arresto. 4.000 agenti schierati nell'area più a rischio, che è quella di Causeway Bay, per gestire l'ordine pubblico. E con noi il nostro Antonio Talia. Hong Kong come la conoscevamo forse non esiste più, Antonio. Buongiorno Giampaolo, a tutti gli ascoltatori. Sì, probabilmente non esiste più, perché quello che è successo, e esaminando il testo di questa legge emerge sempre più chiaramente, è che questa mattina, dopo la notte di ieri, nel quale appunto la legge è stata approvata, è stata promulgata, 7 milioni e mezzo di hongkongesi si sono svegliati di fatto con un regime legale che è assolutamente molto più vicino a quello della Cina. Quindi tutte le libertà di associazione, di stampa, di riunione, di manifestazione sono significativamente compresse. La legge, lo ricordiamo, è rivolta contro la legge sulla sicurezza nazionale è rivolta contro quattro minacce principalmente: la sovversione, la secessione, il terrorismo e la complicità con potenze straniere. Si tratta però di fattispecie molto, molto ampie, assolutamente. E spulciando il testo della norma emergono degli elementi francamente preoccupanti. Per esempio, verrà istituita una commissione sulla salvaguardia della sicurezza nazionale presieduta dal Chief Executive, quindi dal capo del governo di Hong Kong, ma contemporaneamente verrà istituita anche un ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale nominato direttamente da Pechino, che in teoria potrà giudicare e eventualmente gestire i casi e eventualmente anche trasportare in Cina le persone colpevoli per essere sottoposte al giudizio davanti a un tribunale cinese. Ma non solo, lo stesso Dipartimento della Polizia e lo stesso Ufficio della Giustizia di Hong Kong vedrà dei nuovi dipartimenti speciali che si occuperanno esclusivamente di far rispettare questa norma. Ci sono francamente delle appunto, come diciamo, delle fattispecie talmente vaste per cui nella fattispecie di attività terroristiche può rientrare anche quello che abbiamo visto in tutti questi mesi a Hong Kong. Per esempio, con un'interpretazione estensiva, lo stesso blocco del traffico può essere una attività terroristica che sì, è punibile con dai 3 ai 10 anni di carcere. La voce di Antonio Taglia, che ci ha raggiunto in studio e ci sta soccorrendo nell'analizzare, ieri lo definivamo il D-Day, beh, oggi potremmo dire il The Day After, il giorno dopo l'entrata in vigore della nuova legge speciale che Pechino ha voluto introdurre a Hong Kong, con una Carrie Lam che si è fatta rivedere, era un po' che non si faceva vedere, e ha detto che in questo modo la sicurezza di Hong Kong è garantita e tutelata. Levata di scudi da parte di tante associazioni. Nel frattempo però, Antonio, in questa puntata, come sai meglio di me, ci occuperemo di social network come formidabile strumento non soltanto di democratizzazione del consenso, dell'opinione, dell'informazione, lo diciamo sottovoce, va? Però anche come formidabile strumento di propaganda. Ebbene, tanti attivisti di quelli che insieme abbiamo intervistato in questi mesi stanno cancellando il loro account su Twitter, e questa è una prima visibile, molto plastica, molto plastico effetto di quello che sta accadendo. Allo stesso tempo però Taiwan ha detto che è pronta a accogliere i cittadini di Hong Kong, e ieri ancora una volta la Gran Bretagna sta aprendo in qualche modo la possibilità nuovamente del doppio passaporto. Ecco, secondo te queste due aperture, Taiwan e Gran Bretagna, potrebbero dare una stampella a Hong Kong oppure svuotarla di elementi vitali di tutto il fronte democratico, che costituirebbe una diaspora da qualche parte nel mondo? Assolutamente. Dominic Raab, che è il ministro degli esteri britannico, si è espresso molto chiaramente, ha detto che il Regno Unito è disponibile ad accogliere 3 milioni e mezzo di hongkongesi, quindi tutti quelli aventi diritto, che potrebbero trasferirsi nel Regno Unito, rimanere lì per 5 anni attraverso appunto una normativa concessa a coloro che hanno un passaporto da britannici overseas, è detto, sì. E dopo questi 5 anni potrebbero addirittura, se ne hanno insomma i requisiti, diventare cittadini britannici. Quindi sicuramente la Gran Bretagna sta, il Regno Unito sta aprendo a una immigrazione, a una diaspora, sì, di elementi estremamente qualificati, perché le scuole di Hong Kong sono tra le migliori del mondo, che potrebbero ovviamente arricchire il pool di talenti del paese. L'apertura di Taiwan è un'apertura più politica. Ovviamente Taiwan, sappiamo, ha questa relazione molto conflittuale, molto speciale con la Cina, e quindi cercare di solidarizzare e di aprire gli hongkongesi è un'ulteriore prova che Taiwan vuole continuare sotto l'attuale presidentessa Tsai Ing-wen, vuole essere una spina nel fianco di Pechino. Grazie mille Antonio Taglia per essere stato con noi. Queste erano le ultimissime da Hong Kong, i primi riflessi dell'attivazione di questa nuova controversa legge sulla sicurezza. Naturalmente ci torneremo, qualche messaggio di ascoltatori al 349-238-6666, qualcuno col punto di domanda: a questo punto la Cina può essere considerata una dittatura? E gli fa eco qualche altro ascoltatore che toglie il punto di domanda dicendo: è una dittatura agli effetti, quella, a tutti gli effetti, quella del Partito Comunista in Cina. Adesso Roberta Frisani, che facciamo? Andiamo di social. Social network, miliardi di utenti nel mondo, miliardi e miliardi di informazioni personali ma anche con valenza pubblica, foto, storie, video personali e non, tag, commenti, post. Sui social c'è anche tanta informazione, tanta falsa informazione, oltre che propaganda. Dopo l'emergenza coronavirus, i social, ma anche gli utenti, ma anche la stessa grande politica internazionale, si interrogano sul loro ruolo. Facebook, Twitter, TikTok, Twitch, si combatte anche lì e la nuova arena geopolitica è sempre più affollata di attori, ma appunto, come vi dicevo, di strumenti. Oggi vi racconteremo delle storie e vi proporremo delle analisi, ma per voi la domanda è molto semplice e molto chiara: è il momento della riflessione per i social network? È il momento della maturità? E le storie che vi racconteremo vanno dagli Stati Uniti all'India, alla Cina. Vi dicevo brevemente l'antipatia di Donald Trump recente per Twitter, il presidente non ne ha fatto mistero, ha minacciato sostanzialmente di chiuderlo dopo che Twitter avvisava che un suo tweet era un contenuto violento, quando diceva: quando iniziano i saccheggi noi iniziamo a sparare. Non so se ricorderete, ne abbiamo raccontato qui in Nessun Luogo Lontano. Poi Facebook che ha un atteggiamento molto ambiguo, ambivalente se volete, è andato a oscurare post e account di gruppi di suprematisti bianchi dichiaratamente razzisti, dichiaratamente violenti, e probabilmente l'ha fatto anche per in risposta a quella che è stata una vera e propria mazzata anche dal punto di vista economico. Tante aziende statunitensi e non solo hanno deciso di ritirare i propri investimenti pubblicitari da Facebook per evitare che i messaggi di queste aziende fossero associati anche a messaggi che veicolavano l'odio. E poi dall'altra parte, dicevo, Cina e India con questa guerra delle app, con un TikTok che trova nel mercato indiano il suo principale sbocco, che sostanzialmente verrà bannato proprio dall'India. E questo per andare a, come dire, omaggiare ancora una volta quella che è questa grandissima frizione che vi stiamo raccontando, complice le vette himalayane, tra Cina e India. Vi dicevo dei suprematisti bianchi, ve li ricordate i Boogaloo? Ecco, erano cittadini statunitensi con le loro camicie hawaiane, armati di tutto punto, che sono saliti alla ribalta delle recenti cronache perché durante le misure restrittive del lockdown e gli scontri che si sono verificati a seguito dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd, si sono fatti vedere per le strade americane. Si sono fatti vedere in maniera sfrontata, a volto mascherato, in ossequio alle più precise regole igieniche. Peccato che però avessero fucili d'assalto, come nella tradizione di alcuni gruppi di alcune comunità statunitensi. Vi abbiamo parlato anche dell'accelerazionismo, che questa teoria che molti di loro abbracciano, secondo la quale bisogna prepararsi al caos, alla guerra civile, per ottenere uno Stato, Stati Uniti più puro e più originario. Ebbene, è notizia di ieri sera che Facebook ha rimosso 220 account, 95 account Instagram, 28 pagine e 106 gruppi che compongono la costellazione Boogaloo, chiusi anche 400 gruppi e 100 pagine che ospitavano contenuti simili, ma gestiti da account esterni. Il colosso dei social ha infatti etichettato questa rete antigovernativa ed estremista come portatrice di messaggi d'odio e di violenza, esattamente, attenzione, alla stregua dello Stato Islamico e dei suprematisti bianchi, entrambi già banditi dagli spazi digitali di Zuckerberg. Già che ci siamo, allora entriamo nel vivo e vi faccio sentire la voce del numero uno di Facebook. Circa 140 milioni di persone si informano su Facebook. Lei ha detto di essere responsabile dei contenuti, quindi le chiedo: Facebook è una tech company o è il più grande editore del mondo? Senator, this is a really big question. Questa è davvero una bella domanda. Siamo una tech company perché produciamo tecnologia. No, ma le chiedevo dei contenuti. Beh, siamo responsabili dei contenuti, ma non siamo noi a produrli. Questo accadeva nell'aprile del 2018. Zuckerberg era convocato al Senato per un'interrogazione e ha risposto così alla domanda sulla responsabilità che i social network ha dei contenuti. Questo è sostanzialmente, se volete, il punto più nevralgico della discussione di quest'oggi. Parleremo di censura, ma non solo, perché non soltanto Boogaloo o Stato Islamico, anche il presidente degli Stati Uniti, lo dicevamo, era alle prese con la censura, perché dopo la diatriba con Twitter, anche Reddit, che è un forum di commenti online, ha bandito uno dei suoi forum, che era pro-Trump, come parte di una più vasta campagna di anti-odio. E ancora, come ricorda un ascoltatore al 349-238-6666, anche Twitch che è una piattaforma live streaming di proprietà di Amazon, sapete che Donald Trump con Bezos qualche conticino ce l'ha, ha sospeso temporaneamente il canale del presidente americano per condotta carica di odio. Allora do il mio buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Nicoletta Vittadini, professoressa di sociologia della comunicazione, web e social media all'Università Cattolica di Milano. Ha scritto un libro edito da Franco Angeli, Social Media Studies. Professoressa Vittadini, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo. Buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda è, come dire, come siamo arrivati a questo punto dai social network che sono stati vissuti in un primo momento di grande euforia, di grande sbornia, uno degli strumenti più democratici possibili che potevamo immaginare, si è arrivati a un punto in cui inizia la censura, inizia il controllo, qualcuno lo chiama censura, qualcuno lo chiama controllo, inizia la strumentalizzazione politica. Che cosa è accaduto nel giro degli ultimi 10 anni? Beh, è accaduto proprio quello che stava sintetizzando. Questi strumenti sono nati come strumenti di comunicazione peer-to-peer, cioè in cui persone alla pari, comuni cittadini, possono conversare, discutere, scambiarsi opinioni, però progressivamente, anzi direi abbastanza velocemente, sono diventati luogo di discussione pubblica, sono cominciati a essere presenti non soltanto le aziende, ma anche le istituzioni, progressivamente sempre più figure politiche e progressivamente questi spazi sono diventati luoghi dove si gioca parte della campagna elettorale, dove si fa comunicazione istituzionale pubblica. Non sono più spazi di comunicazione soltanto tra pari, ma luoghi che rappresentano un po' la complessità e la dinamicità di tutto il contesto sociale. E quindi molte cose sono cambiate, no? Sono cambiati gli equilibri tra gli interlocutori, sono cambiati i temi di cui si parla all'interno di questi spazi ed è cambiato un po' anche il modo con cui li dobbiamo guardare e li dobbiamo osservare. Non uno spazio simile a quello del bar, ma uno spazio ben più impegnativo dal punto di vista della comunicazione e delle sue regole. Professoressa Vittadini, grazie alla sua competenza proveremo a fare luce su alcuni punti. Mi sembra che il punto vero, nevralgico, lo anticipavo prima, è il grande alibi dietro al quale si rifugia Facebook, che pur veicolando un'enorme mole di contenuti, in realtà si dichiara sempre un'azienda high-tech, per cui loro dicono noi facciamo tecnologia e non si vogliono preoccupare di contenuti. Però una grande fetta della popolazione mondiale si informa su Facebook, e in epoca di Covid-19 anche Facebook ha dovuto in qualche modo istituzionalizzare degli spazi per evitare che una mala informazione si diffondesse tanto quanto il virus. È solo questo il nodo nevralgico, cioè risolta questa ambiguità, come dire, della missione di questa impresa, noi avremo risolto tutti i problemi dei social network? Certamente no, però questo è effettivamente uno snodo cruciale. È uno snodo cruciale perché, come giustamente avete ricordato voi mandando in onda le parole di Zuckerberg, i social network sono nati immaginandosi nella maggior parte dei casi come delle aziende che semplicemente mettono a disposizione degli strumenti attraverso cui le persone possono parlare, come se io avessi un servizio di mail e quindi metto a disposizione una tecnologia attraverso cui le persone possono scambiarsi dei contenuti. Nascono immaginandosi così, no? Le piattaforme social e quindi finiscono a per pensarsi sotto quel cappello di tech company, quella definizione di tech company che usava prima anche Zuckerberg. Questo però significa che loro non si sono immaginate per molto tempo come soggetti responsabili dei contenuti. Poi sono successe alcune cose, no? Alcuni eventi anche storici, le campagne elettorali del 2016, non soltanto negli Stati Uniti, anche le campagne elettorali successive, Cambridge Analytica che ha messo in luce come i dati raccolti da Facebook potessero essere usati per sostenere una campagna elettorale o meglio per costruire una comunicazione persuasiva, una comunicazione sul modello della propaganda che non è nata ovviamente con i social media, ma che ha trovato spazio, no? Con queste campagne elettorali anche attraverso ed è stata forse anche, professoressa, amplificata, accelerata, come avesse trovato il suo massimo compimento in maniera esponenziale. Io lo interrompo per un istante, se è d'accordo andiamo a sentire come sta andando la borsa e poi riprendiamo il discorso. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano proviamo a valutare lo stato di salute e di maturità, se mi permettete, di alcuni social network. Sono successi un po' di eventi e stiamo cercando di ricapitolarli con la professoressa Nicoletta Vitadini, Università Cattolica, che è esperta proprio di questo mondo e ci stava segnalando alcune cesure. Mi permetto di aggiungerne due o tre, giusto per arricchire la conversazione. In un recente pezzo del New York Times si è scoperto come in Afghanistan, dove non vi sono affatto grosse infrastrutture di comunicazione e linee logistiche, sia i talebani che il governo, il fragile governo di Kabul, utilizzano WhatsApp per le comunicazioni più importanti e più urgenti. È risaputo che i manifestanti di Hong Kong, molto spesso li abbiamo contattati attraverso Telegram, lo stesso Telegram è utilizzato dai militanti dell'ISIS, dove fanno proclami e lanciano i loro messaggi. E piccolo tassello, ne parlavamo prima di Hong Kong, basta fare qualche chilometro e leggete in fretta i prossimi tweet che arrivano dal Fronte Democratico, perché mi sa che tra qualche giorno non leggeremo più. Se voi passate nel mainland cinese e provate a aprire WeChat di Hong Kong, sostanzialmente non troverete traccia. Insomma, i social network e le piattaforme come formidabile strumento di propaganda, di comunicazione, ma qualcosa sta cambiando. Professoressa Vitadini, stava ricapitolando un po' gli eventi cesura, no, degli ultimi anni, lo scandalo di Cambridge Analytica, ma anche il Covid-19 ha dato un po' una sferzata, no, all'atteggiamento dei social network. Sì, questa emergenza sanitaria in realtà costituisce un punto di evoluzione importante nell'atteggiamento dei social network, perché ancora a febbraio, quando hanno cominciato a diffondersi le prime fake news relative al Covid-19 attraverso le piattaforme social, l'atteggiamento di Facebook era ancorato a un comportamento di semplice controllo ed eventualmente di cancellazione di quelle che si fossero rivelate delle fake news. Contemporaneamente, proprio a febbraio, Twitter invece ha cominciato a scegliere una via diversa, anche per la tradizionale competizione che caratterizza le due piattaforme, e a proporre una guida verso le fonti affidabili. Sembra un dettaglio, ma agire come soggetto che cancella le fake news o agire come soggetto che suggerisce le fonti affidabili ai propri utenti è sì, posizionarsi in modo decisamente diverso rispetto al contenuto. Non c'è dubbio. E alla fine però la strategia che si è maggiormente diffusa attraverso le piattaforme social è quella che è stata inaugurata da Twitter, perché nell'arco di un mese anche Facebook ha cominciato ad aprire il proprio spazio di informazione sul Covid. Questo vuol dire non solo che ha cominciato a guidare i propri utenti che cercavano Covid all'interno del motore di ricerca o che digitavano la parola Covid verso fonti affidabili, ma che ha affiancato a questa guida anche la produzione di contenuto autonomo, per esempio un aggiornamento sui dati che fa in collaborazione con la Johns Hopkins University e con giornalisti che fanno parte di una redazione sostenuta in parte da Samsung e in parte da Springer, quindi un editore di letteratura scientifica, e Samsung tutti sappiamo che cos'è, quindi con una configurazione un po' particolare, ma comunque ha cominciato a produrre dell'informazione propria, molto piccola, semplicemente aggiornamento sui dati, poche altre news, e poi a orientare. Questo vuol dire però cominciare a pensarsi non più solo come una tech company, ma come una piattaforma editoriale, che quindi ha un tipo di responsabilità verso i contenuti totalmente diverso. Sì. È un punto da cui sarà difficile tornare indietro, perché come Facebook l'ha fatto Twitter, l'ha fatto TikTok, l'ha fatto Pinterest, l'ha fatto ovviamente Instagram, ma siamo sempre nell'universo Facebook, e quindi è una posizione che alla fine tra marzo e aprile hanno assunto più o meno tutte le piattaforme. Quindi vuol dire che siamo davanti a un passo in avanti, no? Sì, quello che, professoressa, io forse improvvidamente battezzavo l'età della maturità per i social network, che lei giustamente in maniera più accademica ma anche più sobria sta dicendo un passo in avanti. Le propongo di fare un ulteriore passo in avanti, perché un ascoltatore mi dà un ottimo destro. Se lei mi investe con la sua automobile, io non faccio causa al comune che ha fatto la strada, scrive l'ascoltatore. Cosa c'entra Zuckerberg con quello che io scrivo sulla sua piattaforma? L'assassino è chi spara, non chi fabbrica o vende armi. E poi aggiunge: oggi puoi essere presidente degli Stati Uniti, se a un tale Zuckerberg non piacciono le tue idee ti mette a tacere, preoccupante, fa riferimento a quello che in parte qualcuno suggerisce, attenzione, un ruolo che diventa politico da parte di Facebook e Twitter nel momento in cui vanno a censurare il presidente degli Stati Uniti. Magari questa risposta la lascio lei, professoressa Vittadini, mentre la prima parte, quella sul l'assassino è chi spara, non chi fabbrica o vende armi, sì, ma c'è una responsabilità nel scrivere sulle piattaforme. Quando noi spesso qui in redazione Nessun Luogo Lontano ci occupiamo anche di grossi criminali internazionali che magari hanno premeditato grandi eventi criminali, grandi delitti, lo hanno scritto sulla piattaforma, quel messaggio è girato, è veicolato, ha suggerito, ha provocato emulazione, beh, lì c'è una grossissima responsabilità e su questo direi che possiamo essere tutti d'accordo. Sul ruolo politico invece, professoressa Vittadini, e con questa risposta la lascio al suo lavoro e naturalmente la ringrazio. Se Facebook censura Trump, Facebook fa politica? Io credo che dobbiamo stare attenti nel modo con cui utilizziamo la parola censura, perché qui siamo di fronte a una piattaforma che ospita un discorso politico, che ospita campagne elettorali, che ospita tutta una serie di attività di comunicazione pubblica istituzionale rispetto a cui gli uomini dalla Grecia classica si sono sempre dati delle regole, no? Quindi dobbiamo distinguere la censura, che è zittire qualcuno che non la pensa come me o impedire la libera espressione del pensiero, dall'idea di dare delle regole al discorso pubblico. Alla fine, in qualsiasi medium ci sono delle regole che vengono date al discorso pubblico, certo. Ci sono delle regole che devono seguire le campagne elettorali anche e soprattutto nei paesi più democratici, e quindi siamo, diciamo, in una posizione che non necessariamente è quella della censura, perché io non la penso come qualcuno e quindi io, Zuckerberg, decido chi può o non può parlare, certo, all'interno di Facebook. Si tratta di capire che Facebook è uno spazio dove si svolge il discorso pubblico, politico, elettorale e che quindi, come in tutti gli altri spazi dove questo discorso si svolge, può essere necessario darci delle regole perché tutto questo sia equilibrato e rispettoso anche dei cittadini. Diciamo. Non c'è dubbio, è fatta salve le debite proporzioni con la compatibilità dei numeri. In questa trasmissione, per esempio, do le regole per partecipare, scrivere post su Facebook e i messaggi WhatsApp, niente razzismo, niente xenofobia, niente sessismo. Per il resto liberissimi di commentare i temi che stiamo trattando oggi e di criticare, perché no? Anche il sottoscritto, lasciatemi invece ringraziare la professoressa Nicoletta Vittadini, che è professoressa di sociologia della comunicazione, web e social media, Università Cattolica di Milano. Ricordo il suo volume Social Media Studies, editore Franco Angeli. Professoressa, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi. Allora, tanti messaggi al 349-238-6666, qualcuno estremizza il discorso dicendo se non sei d'accordo con le regole di Facebook apriti un social tutto tuo, fosse facile. Ci sono tanti social, questo non c'è dubbio, in giro per il mondo, molti sono delle bolle autonome e molto spesso in paesi con derive autoritarie. Un ascoltatore, molta gente non ha capito che Facebook è un'azienda privata e questo è uno dei punti dolenti perché ospita invece contenuti pubblici. Allora direi, facciamo una piccola pausa, tra poco vi introdurrò al prossimo ospite che questo fa di mestiere, è un abile comunicatore politico e un abile utilizzatore proprio di questi strumenti e con lui proveremo a fare il punto e forse a scrivere un tassellino in più di questa complessa storia, quella della maturità dei social. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp si stanno scontrando con non soltanto la sensibilità cresciuta, la consapevolezza degli utenti, ma anche con lo sgambetto che alcune grosse aziende statunitensi e multinazionali hanno fatto ritirando i loro investimenti pubblicitari. E badate bene, Facebook dipende parecchio proprio da quegli investimenti. Poi c'è lo scontro tutto politico tra alcuni leader mondiali, su tutti Donald Trump, che prima utilizza Twitter, poi minaccia di chiuderlo nel momento in cui Twitter sussurra che alcuni suoi cinguetti non erano rispettosi dei diritti individuali. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Non è meglio dare strumenti per giudicare quel che viene comunicato invece di porre delle regole? Gentile ascoltatore, non tutti hanno il tempo o hanno le capacità di recepire quegli strumenti. In più, nei social accade quel meccanismo che molti di noi conoscono, il cosiddetto echo chamber, per cui si trova una continua conferma a ciò che cerchiamo, e le nostre opinioni, più noi ricerchiamo, vengono sostanzialmente consolidate. Quindi è molto molto difficile. Forse le regole potrebbero aiutare a una fruizione dei social un po' più virtuosa e pura. Vi dicevo, India contro Cina è l'ultimissimo caso. In India gli utenti internet via mobile sono oltre 450 milioni da lunedì scorso, non possono più scaricare né accedere a 59 app cinesi, tra cui TikTok, e per i giovani, giovanissimi indiani, questo sicuramente sarà un problema. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano, anzi ben ritrovato. Dino Amenduni, esperto di comunicazione e socio fondatore di Proforma, si occupa fra l'altro di comunicazione politica, e lì si usano parecchio i social network. Dino, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Allora, fra l'altro c'è un'agenzia che mi segnala, Elisabetta Fusconi, plauso di Pompeo per il bando in India su TikTok. Il segretario di Stato statunitense ha espresso la sua soddisfazione per la decisione indiana di vietare l'app cinese. Rafforzerà l'integrità e la sicurezza nazionale dell'India. Un carico da 90, direi, che ci mette il segretario di Stato. Cosa sta accadendo, Dino, al mondo dei social network, a queste continue battaglie, questi bracci di ferro con la politica, con le aziende investitrici, anche con gli utenti a volte? Allora, secondo me sta succedendo una cosa molto interessante che probabilmente sarebbe dovuta accadere prima, ma di cui ci stiamo rendendo conto solo adesso. Cioè, sostanzialmente sta venendo meno il mito di queste grandi piattaforme come Facebook, come TikTok, come Twitter, che credevano nelle intenzioni di chi le ha create e poi gestite e fatte crescere, che sostanzialmente si potesse andare come una, ci fosse una specie di legislazione superiore, come se Facebook avesse una propria costituzione che prescindesse dagli stati, Twitter idem, Instagram idem. Ora invece questo modello sta venendo meno, nel senso che comincia a essere sempre più evidente la questione geopolitica, cioè queste piattaforme rispondono alle esigenze dei singoli stati e non è detto che le esigenze dei singoli stati coincidano con le esigenze delle varie piattaforme. E allora l'India pensa che la Cina possa in qualche modo indirettamente far passare dei messaggi attraverso TikTok, che sia vero che sia falso, ha comunque la possibilità di bloccare l'accesso a queste piattaforme, quindi il mito delle piattaforme sovranazionali che hanno una legislazione a parte crolla in un secondo. Sì, la voce che state ascoltando è quella di Dino Amenduni, un esperto di comunicazione, anche comunicazione politica, socio fondatore di Proforma, che è un'agenzia che si occupa proprio di queste tematiche. Prima estremizzando, dicevamo, Dino, se Facebook censura o quantomeno limita le esternazioni di Donald Trump, Facebook sta facendo politica in quel momento? Allora, la domanda è molto giusta, la rivolgo in un altro modo. Jeff Jarvis, che è uno docente di giornalismo abbastanza affermato negli Stati Uniti, un paio di settimane fa ha scritto una lettera aperta a Mark Zuckerberg dicendogli: ma tu ora stai gestendo questa piattaforma in quanto, diciamo, padrone di Facebook o in quanto cittadino americano? Cioè, qual è la tua responsabilità in questo momento? È solamente quello del grande capo capitalista, oppure le scelte che tu fai su quella piattaforma hanno un impatto anche sulla vita politica? Perché Jarvis diceva a Zuckerberg: attenzione, le scelte che fai potrebbero rendere gli Stati Uniti più o meno vicini alle Filippine, per dire, più o meno vicini a modelli completamente diversi. Io penso che la domanda sia questa, cioè quanto oggi i padroni della ferriera, diciamo così, possano sentirsi al di là della politica e quanto sono chiamati a prendere decisioni. È inevitabile che nel momento in cui viene meno questa dimensione sovranazionale che tutto può delle piattaforme, chi le gestisce deve rispondere delle singole politiche nazionali, e quindi è chiaro che Zuckerberg americano in qualche modo è chiamato a fare politica indirettamente, anche semplicemente dicendo cosa secondo lui è giusto o sbagliato, comunque orienta o dà un'idea di politica che inevitabilmente avrà delle ripercussioni sulle policy di Facebook e poi su alcune altre scelte, come la possibilità di censurare o di segnalare alcuni contenuti. Certo, il problema è che se Zuckerberg si muove, non soltanto muove un auditorium che è gigantesco, è mondiale, è di milioni, milioni, miliardi di persone, ma muove anche un alfabeto, perché noi ci esprimiamo su Facebook dentro Facebook, ma anche attraverso Facebook, con quelle regole che, fra l'altro, un ascoltatore fa il paragone, dice: voi le chiamate regole, Goebbels le chiamava propaganda, e questo mi sembra francamente un po' eccessivo. In ultima istanza, Dino Amendoni, l'ultima domanda, ti chiedo un po' di sfregare la sfera di cristallo e provare a disegnare nel prossimo futuro come si riposizioneranno tutti i vari social network. Abbiamo capito dalle tue parole, sono finite queste piattaforme sovranazionali, liberi dalle regole, super democratiche, devono in qualche modo flirtare o venire a patti con la politica e con la società. Qual è il loro futuro, secondo te? Le alternative sono due: o tutti quanti chiudono un occhio nei confronti delle varie politiche dei vari paesi, per cui chi investe in Cina, per esempio, fa sparire piazza Tiananmen per farla bere, e ci si oppure Hong Kong, esatto. E ci si mette d'accordo tutti insieme, o al contrario Facebook diventerà il social network degli americani, TikTok diventerà quello dei cinesi, ognuno ci avrà il proprio, e quindi il modello ci andremo a spezzettare invece che a unificare. L'autarchia è l'isolazionismo e l'autarchia dei social, e questo è uno degli scenari che ci propone Dino Amendoni, lo ricordo, esperto di comunicazione e socio fondatore di Proforma, che ringrazio. Buona giornata e buon lavoro, Dino, alla prossima. Tanti messaggi al 349-238-6666, faccio fatica veramente a sintetizzarli. Io proporrei a voi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, visto che Dino Amendoni proponeva un patto, io propongo un patto, che ci torneremo molto presto su questo tema, cercando di stressare, sottolineare ancora di più quello che è il ruolo strettamente geopolitico dell'utilizzo di questi social network, una arma formidabile che è a disposizione della società civile, della grande politica, ma anche delle grandi relazioni internazionali. Se adesso fossi su Facebook, digiterei un post che recita questo. Poi cliccherei mi piace, perché Roberta Pisani sei puntuale come una svizzera. Bao Fusconi, sì, era uno scherzo. Grazie mille a tutti voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani ore 16. Una buona serata da Gianpaolo Musumeci.